linea della mutua. Linea tassistore. Sì, ma che marca, che cos'è? B2002. Vuol dire che non viaggia. Chi è avanti? Sparito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cazzo, dovrebbe la B100 la prima cosa. Va bene, domani ti compro le resistenze. Evidentemente ci sono le resistenze velocità per ingresso. Devi cambiarle allora, se non va bene. E infatti, appunto per quello, domani le cambio. Davvero? E anch'io sto andando, pochi vatti. Alla brittella. Ehi, pochi vatti. Mi sa che la rimetto davvero l'antenna. Che antenna, Cla? Ehi, ho fatto gli spostamenti per fare un po' di pulizia, ma... No, non mi piace questa posizione, deve essere troppo chiusa. Troppa lamiera c'è attaccata. C'è le sole direttive, le VHF, le U, invece di là era libera. Ah, ecco. Vabbè, a me non è che si è cambiato. Cosa? Aspetta, a me non è che si è cambiato, alla fine è sempre uguale, quasi uguale, dai. Lo so, ma c'è troppo RF, troppa roba vicino c'è. Ah, ho capito. È un casino, ecco. Io già non posso fare nulla, perciò non è che posso fare spostamenti, niente, zero. Non lo giaccio. Pompo, ma tutto bruciato. E cosa vuoi che ti dica? Nulla. Riccardino, non ci ho sentito. No, Cla, no, per niente. Io che ti ascolto, Claudio. E dove sei? In barra mobile. Gappa, in girella sei? Sì, positivo. Ehi, va bene. Saluto anche a Sergio, allora, se sta ascoltando. Ciao Sergio, buonasera. Cosa stavo dicendo? Venticello fresco? Sì, esatto, ha detto Babbo che contraccambia. Gappa, lascialo guidare. Questa mattina io ero impegnato e sono, te l'ho detto, su WhatsApp, sono un po' incasinato in questi giorni. Mi sono rientrato poco fa, se no magari sarei passato stamattina a trovarvi, dai. Va bene, avanti Luca. Ehi, ciao Riccardino, ciao Assetio, dai. Ciao Luca. Ho abbassato leggermente il microfono, già va bene, sì, Luca. E a voglia. Vediamo che entra Roberto, lo dice che è troppo alto. Sto rompipalle, eh. Beh, sei passato a portarteli. No, non ce l'ho fatta. Domani mattina vado direttamente domani mattina. Così vediamo già di impostare tutto e così si iniziano, se no non è punita in chi vive una vita, no. Voglio già vedere una cosa io, vedere se me li posso già preparare, insomma, domani mattina vado, non ti preoccupare. No, oh, io non sto preoccupando, ci mancherebbe, sto chiedendo, Cla. Tranquillo. No, perché poi quando ho lasciato a te sono andato a prendere il cane lì, che era da Monica, ti ho detto a lavarlo. Ho fatto mezzogiorno e mezzo a trasalire tutto, portare il cane perché c'è troppo caldo, non è potevo lasciarlo in macchina. Portare il cane a casa e aveva già chiuso, quindi gli porto direttamente domani mattina. Poi io la sera non esco perché ho altre cose da fare. E dove stai andando, Riccardi? A casa? No, stiamo cercando delle batterie per il camper. Ah, batterie per dentro, per l'interno? Sì, positivo, per l'interno. Gappa. Ehi, ma mi ascolti bene che sono nella zona industriale? Ehi, se non ti ascolto io, allora che ti devo ascoltare? Santiago 9, sì. Ok, va bene, grazie Claudio. Anche io lo ascolto bene. Santiago 7 a picchi di 9 qua, a picchi di 8. No, arriva benissimo. L'avevi provato poi quel turner? Se l'attacco andava bene a qualche radio, Ricca? No, lo stiamo provando, va bene. Ci sentiamo dopo che adesso scendo e tra un decina di minuti più tardi rientro in barra mobile. Va bene, già siamo qua. Oh, Cla, volevo fare una prova, se mi dai tempo volevo provare il microfono dalla Jackson nel cord. Prima ti faccio la prova con il microfono che uso spesso e poi io aggancio quello, dai. Se mi dai 2 minuti che saldo i fili, che sposto i fili un attimo. Ehi, ehi, di nuovo so. Però curiosità, che se va bene lo faccio nel typhone, si può modificare. E io devo fare cambiare il connettore a quello dello standard. Che è un microfono un bel amplificato. Dai, prova. Ehi, appena scaldato l'adattore. Già va bene. Ehi, una cosa di buono, questo microfono c'ha una plastica che si divide metà per metà, dove ci sono i fili, e copre bene tutti i fili. E io che stai parlando? Con Claudio, già, scusa per poco fa, ma chiamo a Tortino, siccome mi doveva portare un telefono dalla moglie che non accende più, è morto. E siamo rimasti un po' al telefono, poi ti ho chiamato, non mi hai più risposto. Sì, vabbè, poi ho visto che non entravi, ma ne sono andato a mangiare qualche cosa. Perché stavo parlando con Claudio, là. Claudio chi? Claudio di Sassari o Claudio di... figlio di Capri... Spalviero. Con me. Oh, via qua, ciao. Ciao, buonasera. Buonasera, via. Poi, adesso mi sono sdraiato 5 minuti, stavo facendo suonare. Ehi, io stamattina ho portato il cane a lavare, un altro mezzogiorno e mezza. Bello pulito, lucido, poverino, tutta la sera coricato dalla stanchezza. E poi sono andato un po' in ufficio. Sono entrato poco fa. E boh. Adesso mi sto seduto qua, se c'è qualcosa da fare, se no, pazienza. Buono sta quando lo lava, Cla. Cosa? Ho detto buono sta quando lo lava, o la ringhia. La ringhia? Si dromi con Monica, non me la vede, diventa pazzo. Io come scende la macchina lo mollo e lui va subito dentro a tutta si ringhi, tutta se la... Oh. Da piccolo io l'ho portato sempre lì, a riconoscere al volo. No, io già lo lavo dentro la bacinella. Lo lavo una bacinella grande, la metto dentro la vasca e lo lavo lì. Lui sta fermo, si fa fare la doccia tranquillamente, poi gli metto lo shampoo, tutto quanto. E poi lo asciugo, lo prendo con un asciugamano grande che uso solo per lui e lo asciugo. Lo so, io quando ero piccolino la facevo, poi mi riempiva tutto di pelo, un casino. Capito? Soprattutto adesso sta facendo, togliendo la muta dal collo e quindi... No, mi prende anche poco perché ci conosciamo, adesso ho aumentato, a me no, quindi glielo porto. Gli ho lasciato dalle 10:30, me l'ha dato a mezzogiorno e mezza, ma l'ha fatto lucido, lucido, tagliate le unghie, pulite le orecchie, tutto controllato. E gli ho messo l'antiparassitario oggi, stasera, capito? Perché bisogna metterglielo adesso. Che lo metto tutti in mano? Guarda un po', Claudio. Questo qua, quello del Jackson, cambia. E l'altro qual è? Fammi sentire l'altro. E l'altro è questo, cambio. Questo mi piace più la timbrica. E come rimane l'altra? Non rimane chiara, no? No, è troppo metallica, non mi piace. Cazzo, non ha niente da fare. Abbia cucchi là. C'ha anche il cucchi, però te la fa un po' più metallica. Questa è più grossolana, più bella. Non ha niente da fare, dai, vabbè. Oh, lo puoi usare lo stesso, Milu, va bene lo stesso, eh. Ok. Ehi, c'ho una prova, dai. Ehi, dimmi già. Andavo a fare un bidone e Torino a Capri 2, cazzo di risati, di lacrime me ne arrivare. No, con quel cane morto, e cosa avete combinato? Allora, io ero spillo, io sono lo spillo da Bergamo. Ciao, come va? E lui, avanti Bergamo, va. Io e Torino, pisciati, Torino ha fatto lo spagnolo, e poi c'era Franco pure che era spagnolo. Che sciocchezza. E vabbè, aspetta, io già le faccio fabbisogni. Poi ci siamo pisciati qua, si è registrato. Poi alla fine ho detto io passate su 10 e lui deve essere ci ha seguito e avevamo attaccato a ridere, ho detto tanto che avevamo capito che cazzate, che non fate voi. Cazzo, ma domani non vediamo i segnali. Vabbè. Noia. Claudio ha detto bene, lui ha detto no, me ne sono accorto che eravate voi, vi ho fatto fare, invece Claudio ha detto no, c'è cascato. Poi alla fine gli ho detto ma guarda che segnale fisso, quando mai non te ne accorgi che non è propagazione. vabbè, anzianotto è anche lui. Ah, ma che break! Cosa c'è l'età nostra? Chi sei? Non ho capito chi sei, avanti. Dove sei, lupo grigio? Che ti sento bassissimo. Basso basso ti sento, e non lo so se ti senti Luca meglio, perché quella zona ce l'ha meglio lui. Avanti. Sì, ha detto che è in Cirella Sassari. Ancora un chico un gatto di portate. Ho capito, lupo grigio, dai, che zona sei? Io non ho scelto qua, ma vabbè, prendo la Dumba. E via Lumberto, Via Lumberto Alta? Cavagava, ho capito, dai. Via Veneno e vado via le tre, te lo guida di mamma che si porta a fringi. Manco pagare lui, cazzo, che sono portati. Scappa, ti mando Luca, avanti Luca. Io non credo che mi ascolta a me. Mi ascolti? Non intendo più. Qua non arriva per niente, 0 sotto 0. Ma cazzo che ha una chiamata? Sto vasino, io ho portato, quant'è qua? 25 anni fa, 30 anni fa. No, non so quanto l'hai portato, no, non arriva da nessuna parte, aiuto. Vabbè, io già va bene, io vado vicino a casa e parlo con tutti, però è sempre limitato. No, tu, quando porti il cane io ti sento, segnale 3, segnale 4. Cazzo, lui non arriva per niente a via Umberto. Secondo me c'è quel cuocomane di Natalino. E vai, cuocomane sarai tu. Attenzione Natalino, Alfa 1, se tu ascolti Luca, grande, grande. Già ti ascolto. Ruiaia. Mi è stato adesso. E dov'è il bello Natalino? In un posto bello, Vabbè. Ma lo sai che mi ho comprato la colonnina come quella tua già? Alla GBC? E allora? Ce l'avevano? E che non te l'ha fatta pagare? 7. No, non è possibile che sia come la mia allora. La mia costava mi pare 25 o 26, non lo so. Ma quella grande quadrata con i filtri. Io l'ho pagata a 27 già, l'ultimo a 6 io avevo te la doia. Allora, con il filtro allora. Quando lo inserisci si fa più passa la radio, così è. No, non ti filtra la radio, ti filtra i rumori, capi? Non te lo vede mai a 26. Lo so. Ma ce l'ho qua. Staffa anche. Sì. Quant'è che l'avete pagata a 26? 7 l'ho pagata, non 26. 7 euro è un prezzo, un prezzaccio, eh. Mi sembra strano che chi mi la paghi di manco, boh. È solito, ecco. Cosa c'ha la staffa anche? La mia c'ha anche la staffa. Gianni l'ha pagata 27, non 7 euro, 27, capito? 27, capito? 27 l'ha pagata, 27. Ma si usi 7 euro o 27 la tariffa? 27! Tu, ho tenuto a razzi 27, 2 di secondo, 7 di settimo. E 0 di 0. Cazzo di amaro, già vai, bro. 27 euro, 27, cazzo, via da voi. Via da voi. Cazzo, quella dell'FT950 la giocherà da 187. Poi fa la stessa cosa che fa quella, se ti vedi, ui. E le marche che paghi, Claudio. Tante volte sono anche le marche che paghi. Sta arrivando un'altra. Ne ho preso anche un'altra, però da fuori quella. E non fa la stessa cosa che fa quel giocattolo, no, Gianni? Lascia perdere. c'ha tre filtri medio, alto e basso, c'ha un altoparlante micidiale. Prova di là Roberto, vedi che ce l'ha uguale lui, quella è 940. Sono colonnine fatte apposta, che vanno in base ai filtri della radio. Sono belle cose, però è di linea, e quindi è chiaro, paghi il marchio, paghi tutto. Ma è una cosa allucinante quanto costano l'altoparlante SM della radio. Allucinante. Beh. Io ho comprato usata, nuova, entro la scatola, quella del 430, l'SP430, perché io avevo quella del 440. C'ho quella del 440 e mancava quella del 430. Cazzo, usata 120 euro. E se le farò pagare. Ma l'ho presa perché la volevo prendere, ma è un furto, è un furto, capito? Ne ho visto altre io, questa è una nuova, ne ho visto altre, 70 euro, 80 euro, 50 euro, casuita 120 euro, vabbè spedita, vabbè, già va bene, no, io nei baracchini altoparlanti esterni non ne ho, perché c'hanno una recessione favolosa, veramente vanno bene, quindi non voglio mettere in mezzo rotture di scatto. No, io ce l'ho solo per uno, per il Magnum, perché l'ho messo sopra 3009 e quindi all'altoparlante sotto e non sfoga, e allora per farlo sfogare gli ho messo la cassa esterna. Capito, tio, già va bene. Andare, Natalino Alfa 1, cambio. Eia, ma funziona bene anche se faccio il filtro, quando metti il filtro si abbassa perché si elimina il rumore. Adesso devi cercare di filtrare quel cacchio di microfono che c'hai lì, porca miseria, cazzo, ma non è una capsula che ti permette di uscire più forte. C'è ancora qualcuno? Claudio, ci sei? Certo, perché sono qua, rientrando? Adesso stiamo rientrando, stiamo caricando le batterie. Gappa, avanti Gianni, per Riccardino Mobile. Ciao Riccardino, arrivi bene qua, dove sei? Nella zona industriale. Zona industriale per Danita? Positivo. Gappa, arrivi Santiago 95 qua a casa. Che antenna ci avete in macchina, Riccardino? Cosa? Che antenna avete messo in macchina? Una Sirio normale. Non so spiegartela, una Sirio da una centimetri. Ah, va bene, da. È piccolina. Sì, non è una cosa gigantesca. Questo si è abbassato. Va bene, dai. Avanti, Natalina. Ciao, Riccardino. Ciao, Natalino, ti sento basso, comunque ti ascolto. Quindi già che sto facendo cosa qua. Ehi, avanti, Lu. Claudio. Tutti fuggiti sono. Eia, stavo cambiando radio, Nicca. Ripeti con Riccardino che non risponde nessuno. Ehi, aspettate un secondo, mi sta chiamando mia moglie. Un secondo arrivo. Ma gli dici? Ehi, allora ci sono, sì, c'è anche Riccardino. Vai per Riccardino che sto facendo una cosa oltre. Via. Ciao Riccardi, dove sei? Com'è? Sono nella zona industriale, adesso sono davanti, più o meno davanti, vicino all'ultimo che hanno fatto, l'ultimo che hanno costruito. Ah, vicino, capito, là. Vicino al bar 188. Sì. Ti ascolto bene, là. Tu bar mi ascolti, sì? Sì, ti ascolto tutti benissimo. Strano che io sta arrivando così forte con questa veicolare. Santiago 9 stai arrivando qua. Ma invece a casa quanto era? 9.15, 9.10? 9 più 20 arrivi a me adesso. 9 più 20, dalla macchina 9. Ah, ok, cappa. Vabbè, se lo smetto un po' la palma, arrivo a 5. Vabbè, se arrivo a 5 fai che ti arrivi 7-8 almeno. Non sei timi, ma niente, ma già dico, che brutto viene il coperchio. Ce la facciamo, ci vuole un minuto, mi ti metto la portante e lo porti sul più. Finito, lo richiudi. No, cra, devo svuotare i pomelli, pure tutti i dividi, no, non ne ho voglia, cra. Ce la facciamo uno di questi giorni. Ci vuole 5 minuti, ci vuole. Vabbè. Quando vuoi me lo chiedi, ti metto la portante, andiamo sul 20. in più, come il telefono. Poi passiamo. Aiutava per montare, già sono stressato. Ma lui andiamo in città, una specie di cista e una patatina, infatti c'è la fuori, la devo portare per venerdì al veterinario. Lascia perdere, il mio fortunatamente un po' sta meglio, ma anche il mio è sempre in cura, sempre spese, contro spese. Di no, solo di no. Comunque, non mi ha detto cos'è, aspetta, ma non lo so, da Gianni cos'è, vaginale, un'ernia vaginale sarà. Provasso vaginale qua. Ah, non è un'ernia? No. Vado a portare, come l'ha vista, se da operare 250 euro vuole. Ecco. Avanti. Faccio il bicarbonato, avanti break. Avvino da queste parti. Un messaggio per Luca. Ciao Claudio comunque. Ascolta Luca, il pannello serve anche a me. Uguale identico. Io c'ho un apparecchio che è filato lo stesso pannello. No, questo qua non è filato, è nuovo, solo c'è il flat, questo è il flat che è danneggiato. A te serviva il pannello? Sì, il pannello di quello, perché c'è una riga centrale. Capito, Gabi? Siccome avevo sistemato i LED, l'avevo sistemato, la prima volta non avevo fatto pagare niente, là. Però purtroppo una ragazza che non lavora e mi sono venuto incontro. La seconda volta l'ho aggiustato lo stesso a pagare e poi c'è questa riga e ho notato che c'è un po' il flat staccato, ma non è danno che ho fatto io, perché sennò l'avrei fatto anche dall'inizio. Io ho sempre fatto questi lavori, capito? E grazie a Dio non ne ho mai rotto. E adesso c'è questa riga verticale per via di questo flat mezzo staccato. Beh, non glielo puoi appoggiare e fissare con del nastro perfettamente incollato. Ho provato a schiacciarlo, un po' ci spariscono le righe, ma è un casino. Sono quelli che sono praticamente attaccati al pannello LCD, non sei meglio di me. No, non si può fare niente, Gabby. Beh, sì, allora è un casino. Allora ci vuole per forza il pannello. E niente, se dovesse capitare, perché quel pannello sì, è montato su un Unite come apparecchio, che poi più o meno si equivalgono, però è filato quello che ho io, è danneggiato, se no trovavo, capito. Come sta uscendo questo microfono? È un po' bassino di radio, là. Comunque ti ascolto, segnale 9, fai che sei 9 e 10, là. Niente, avanti caro, non lo stai ascoltando. Ehi, qua è 9.35, ma è via Napoli vicino a me. La radio te l'ho detto, ho migliorato tanto, però puoi fare qualcosa in più, Gabi. Sempre un po' bassina, Va bene, dai, io mi allontano. Vorrei vedermi un po' di più, troppo presto stare in radio, là. Ci sentiamo più tardi ragazzi, c'è anche Gianni doppio rum e Natalino, avanti già. Ehi, ciao Gambino, mi hai sentito, avanti. Già, ciao Claudio, ci sentiamo le prossime. Vabbè, per il abbiamo aperto le VC, ha diminuito come vantaggio e più di tanto non va. Tu come la senti già? Prova a capire sto quello del segnale. Ma magari il segnale, sto uscendo con 3 watt, 1, 2, 3, 4. 9.15 di segnale, la radio è 4, dai, non ti posso dare 5 perché non è molto alto, è 4 normale. Comunque ciao la via, no, comunque non mi sentirai. Ma invece ti sento Riccardi, ti sento, un po' bassino ma già ti tiro fuori. Ah ok, va bene, comunque ti saluto. Ciao. Vai Luca. Eia. Vabbè Gabi, pazienza, là. Io non mi posso fare nulla. E se dovesse capitare già te lo faccio sapere, tanto c'è il modello e via. Ehi, perché c'era un tipo che stava prendendo su eBay, Io ho detto, ma non è che è rotto o è difettoso? No, no. Io ho detto, vabbè, se non funziona mi fa il rimborso. No, non accetto, perché non accettava la restituzione. È un casino quando è così, no, non conviene. No, lascia perdere. Ma infatti già non glielo ho acquistato, mi interessa. Via, vabbè, io sono in ascolto comunque, dai. Adesso mi soffisco una cosa e poi ogni tanto ci sentiamo. Una buona sera a tutti, dai, un buon proseguo di serata. Gavi, a me come mi ascolti col 3009 l'MB più 5? Allora, prova un attimo. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, Santiago 9 più 10, radio 5 con positivo, un picco di positivo, da, a 7-8. Gava, dai, va bene, dai. Se stai lavorando ti lasciamo lavorare, capi, dai, riprendi o Luca. Io un attimo. Avanti, adesso meglio Nicola, adesso meglio. Prova che mi ho messo gli occhiali, dai. 6-5 di segnale, prova l'altro passaggio. E così 6-6.5, dai. Ma chi è Lupo Grigio? Eia, sì, è così, dai. Non so come tu mi stai sentendo, a me adesso di radio, come vado io? Capo, avanti Riccardi. Eia, lo sento passo. Comunque lo saluto, lui è col portatile, non mi sentirà. Comunque sono contento che è tornato. E dopo che non si faceva sentire, ha detto che stavo uscendo. Riccardi. Ah, ok, perché sono in barra mobile, sono alla zona industriale. Sei sempre fermo allo stesso posto, Riccardino. Sì, sono fermo adesso, babbo. Qui un attimo che sto fermato perché sto modulando e quindi siamo fermati un attimo. No, ok, no, devo regolarmi una cosa, dai. Per regolarmi, perché con l'altro mi arrivi 9 e con questo 7, capito? Questo c'è da regolare lo smitter e basta. Ah, ho capito. E volevo sapere se ti eri mosso da lì per quello, per sapere se la posizione era sempre uguale, dai. Eia, va bene. Sì, no, sono sempre allo stesso punto, non mi sono mosso. Cava, va bene, dai. Anda bene. E la Pedaneta arrivi bene, dai. E quella zona lì è buona per modulare con Sassari. Se ti metti dove c'è il Bricco, oppure sopra Città Mercato, la parte di su del terrazzo, non so come arrivi a Sassari, una bomba. Lo so, adesso voglio vedere se si poteva mettere anche un'antenna migliore, perché non ci sono alcune buone comunque che si potevano installare su un set tipo magnetiche, però se stanno andando bene va bene così. Sembrava quasi per andare a casa da quello che mi avete detto il Santiago alla radio. Bisogna vedere in lontananza però. Perché se tu fai le prove devi fare lontananza, vicino ok, va bene, però devi andare magari a Porto Torres, Platamone, a vedere come va su strada lunga, capito? Eia, va bene, no, è perché comunque tipo con l'antenna che forse è un po' più lunga, quella che ho a casa di nonna mi faccio sentire da meno gente, e invece con questa mi faccio sentire anche da Claudio, che con quella da casa di nonna non mi faccio sentire da Claudio. Gappa, va bene, dai, non c'è problema, ti sento bene, poi la tua voce è squillante, quindi arrivi benissimo, là. Eia, Kappa, facciamo riprendere a Lupo Grigio. Lupo Grigio, ci ascolti, cambio. Kappa, sì, in barra mobile, sì. Lo so, ieri era tutto il giorno così, c'era la Spagna e poi non ti facevano entrare, ti sentivano, non ti facevano entrare, è quello che ti dà più fastidio, capito? Hanno detto italiani, sempre modulando, italiani, vuol dire che ci sentono. Mi allontano un attimo, ci sentiamo più tardi, se adesso mi muovo. Ma puoi parlare lo stesso, Riccardo, anche se ti muovi ti ascoltiamo. È proprio quello che bisogna vedere, che il movimento come va. No, perché devo entrare in un negozio, capito? È per quello. Ah, ok, va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ciao. Ehi, ciao a tutti, ciao, un po' così ho fatto sentire più spesso e ci sentiamo più tardi. Quando c'è propagazione, sì. Quando c'è propagazione, quasi tutti i canali sono con gente da fuori, capito? Io oggi ho parlato con Verona. Con Verona e poi, boh, non mi ricordo l'altro dove era. Che ci stava parlando anche Tonino Kawasaki e poi sono entrato io. E insomma, già ti diverti, dai. Ti ha fatto il DX allora. Ho capito, dai, avanti lui. Aspetta, va, 2 secondi, già riprendo subito, KK, dai. Comunque va bene. Speriamo che com'è nata non muoia. No, stavo mettendo il telefono in carica. Non si sta appassionando, si è già appassionato. Mi ha attrezzato la luce di tante CB che hanno anni di frequenza, capito? C'ha microfoni a gogo, c'ha radio a gogo, insomma. Può avere l'imbarazzo della scelta, dai. K, sì, non ho capito male. Vabbè, dai. Me lo dici come sto uscendo di radio, se è amplificata, se è normale, com'è? K, sì, dovrebbe, però voglio sapere se esce forte o no. KK, dai, va bene, dai, deve uscire così. Sì, questo è l'MB più 5 che sto usando, MB più 5. Poi l'attacco elettrico dove l'attacchi alla batteria, ho capito. C'è un problema che io ho provato a metterla nella mia macchina con l'attacco accendisigari, però non funge, praticamente fa pru pru pru pru pru pru come se non ce la facesse. Ho capito, dai. Va bene così, va bene. Sei sempre precario comunque, dai, non vuoi aumentare come stazione, non ti vuoi mettere a livello degli altri, dai. Ho capito, vabbè, vedi tu cosa vuoi fare. Io ce l'ho uno veicolare che è omologato, che se lo vuoi te lo faccio avere. Quello lì è l'ala 48 plus, no, negativo, ho la base magnetica ma l'antenna no, perché quella lì va messa sul tetto, non sul poggiolo, va messa sul tetto, allora sì che vedi le differenze. Non serve a nulla la mini Grand Prix, non la prendere nemmeno perché non arriva da qua a due passi, dai. La mini Grand Play proprio non l'avrei presa, semmai la Grand Play quella con le radiali 2,75, quella sì che va bene. 2,75 m. Chi la metti sul terrazzo, cosa te ne frega? Vabbè. Vedi Riccardino, in poco tempo si è fatta una stazione bella, dai. Così dovresti fare tu, dovresti metterti l'antenna sul tetto e non se ne parla più. Così ti ascoltiamo tutti bene e possiamo fare questioni tranquilli, capito? Perché così un giorno ti ascoltiamo, un giorno non ti ascoltiamo, macello. E cosa vuol dire se avete campato? Anzi, non è che per forza tu devi fare TVI, TVI lo fai quando l'antenna è allo stesso livello delle antenne del televisore, ma se tu la metti più in alto non le fai TVI. E tu mi sa che ti rimetti tu i problemi, che magari la metti e non succede niente. Provare non nuoce, no, tentare non nuoce, se vedi che disturbi la tua, sai ci vuole. Ma prova, no, se non provi mai riuscirai a fare quello che vuoi fare. Ehi, avanti chi c'è, là, Riccardino è entrato, sì. No, Riccardino non è rientrato. Avanti chi c'è su 10? Perché è un orario che non le piace a nessuno al modulare. Poi alle 8 se ne vanno. Adesso sono le 7:15. Poi alle 8 se ne vanno via tutti quanti. Vanno a mangiare. Vabbè, Felipe. Ciao Marco, ciao, ben sentito. Ciao Lupo Grigio. Ovviamente sì, dai, ti sentirò meglio di tutti gli altri. Cuoco, male. Sì, c'è anche Luca, che quando chiami l'appello non risponde. Vai avanti Luca. No, Luca, quando lo chiami all'appello non risponde. Inquirichisi. A me lo dici, sei meglio. Pirata, tutto abusivo quello lì. Catamarco, tu? tu parli tu, diciamo non rispondi, oppure rispondi vagliato. Ma io sono uccello di bosco, Luca. Sì, uccello di roba, sì, tu uccello di bosco. A proposito, guarda che a quel negozio mi sta riarrivando quell'apparato. Cosa? A quel negozio gli sta riarrivando quell'apparato. Sì, vabbè, ormai lo già faccio. Mi ho messo anche il led stamattina nello smitter. L'ho staccato la lampadina sua, ti fa dei schifo, gli ho messo il led. Sì, adesso è bianco. Vabbè Marco, cosa? Ormai. Ho fatto la frittata, è fatta. Ora se riesco a trovare qualcuno che se lo compra, se sa la cifra che l'ho comprato, me lo compro nuovo. Ehi, ma non c'è Verbe stasera sul canale, no? Non c'è? Sturati le orecchie, Verbe, non c'è mordente. No, io brutto pirata che non sei altro. Zitto, tu disturbatore di televisori. Sono tutti cuocomani, Marco, non ce n'è Verbe, come ti hai detto tu Verbe. Io sarò anche disturbatore dei televisori, però tu sei abusivo. Poi si chiama già qualcosa che c'ha Luna? Prolasso vaginale! La faccio operare al cane mio, vedrà che il prolasso rientra. Ma io credo quella fatta, ma non me la fatta, non me l'ha arrivata la Figgani, quella fatta di un calendario. Tranquillo che dici io, la musica già a burro. Vai che un cane mio cazzo è sempre a retto, cosa c'è di sé? Ma poi sei a retto tanto voi, ma no, da lungo, fidati tu di me. Dici io, la musica già a burro, la commessa, io, si scommetti. Facciamo il lavoretto, beh. Non ve la fate, va. Non ce l'ha fatta nessun cane, Natale, 12 anni, beh, curto, cuocomane, non ce la fa. Il cane mio è cuocomane, e lei se ne innamora, e allora è vita la canzona. Perché tu nulla avresti dovuto fare a copiare con qualche cane della sua razza? Fatto, non ne ha voluto già, no, ne ha voluto sentire né sapere niente. Non ha voluto, cavolo, cosa... Guarda, l'ho portato anche a Marco, no, non ti chiama quel tipo, a Marco Alfa Romeo mi pare, della Tedosi, quel tipo grassottello che parlava a baracchino. Anche a lui l'ho dato, nulla, quel cane suo, puro, nulla, non ha voluto. Probabilmente lì, allora. Piccolina Luna, ci vuole un cane piccolino come lei, ci vuole, capito? Aspettate che c'è Eugenio chiamando. Eugenio, avanti! Ciao Eugenio, passo passo stai arrivando, dai, dove sei? Non so se ti ascoltano gli altri, avanti Luca! Eugenio! Però sono avuto un latidozio, vi sa tu sei, tu bello latidozio Luca Flipper, o io. Io sono il più brutto del monte, vero già, avanti. Abita nelle villette, Luca, nelle villette del monte. La schiera. Sì, magari a Silvetti, vedi sono i giardini a Sassari. No, al monti. Lì ci abitava mia zia. Grassi. Gianni Grassi, l'hai conosciuto? Gianni Grassi, E un po' di tempo fa, non lo so pure se l'ho cambiato casa, sicuramente, saranno molti anche. Lui faceva il meccanico, era un bravo meccanico. La metà fa, 30 anni fa. Ti vedi, non ero un altro. Magari tu ancora di piccolo, no? Non potevi conoscere. Lui Gianni ci aveva già una trentina d'anni quando tu eri piccolo. Un casino, Vabbè, 30 anni fa avevo 15 anni. Oh, lui, quando parli sembra che stai parlando di ieri, invece stai parlando di 30 anni fa, di 40 anni fa, ma te ne rendi conto? Come già, scusa? Che quando parli di certe cose sembra che stai parlando di ieri, invece stai parlando di 30-40 anni fa. Fino all'altro giorno c'avevo 14 anni, quando c'avevo il benellino, adesso me ne ritrovo 30 sopra, 31 sopra. Vabbè. La vita è così, scorre, poi vecchiamo, chissà da vecchi cosa ci succede, cosa vuoi va, purtroppo si invecchia, si nasce, si muore, è così, la vita è questa, c'è chi ha la fortuna di avere una vita bella, quella un po' meno bella, purtroppo è così, chi muore giovane, chi muore a 100 e più anni, è così, e che hai su conto? Vabbè, ce ne freghiamo, là, parliamo d'altro. È a fortuna, è a fortuna. Eugenio, come mi ascolti di radio a Porto Torres? Eugenio, ho detto come mi ascolti di radio? K, ma si sente l'amplificazione? Vabbè, ma è stato modificato, là. Per andare bene l'ho dovuto modificare. La capsula era mezzo partita, quello che secondo me non lo faceva uscire a volte. Se ho cambiato la capsula non l'ha più fatto. Ehi, tutto bene ciò che finisce bene, già l'ho messo a posto, non ti preoccupare. Andale, ma sono quello che c'è? No, c'è anche l'attarino, c'era Riccardino, ma se ne è sceso dalla macchina e gli dico col padre. Avanti, Natalino. Io l'ascolto pazzo a Eugenio oggi. E anche io, è in macchina. Sta girando. Dove stai? Rientrando o stai andando, Eugenio? Non ha cammino. Ah, Eugenio, stai andando o stai rientrando? Sto rientrando da fuori, finalmente. Andiamo tutti fuori. Ehi, Eugenio, dai. Quale delle due? Quale prendi delle due, ho detto? Cava, dai. Va bene, dai, oggi buon giro, allora buon rientro a casa, dai, riprendi Luca. Ciao, oggi ci sentiamo, dai. Buona passeggiata. Beh, chi è rimasto questo canile? Lucrezia, tu sì. Eia. Cappa. Oia. Un attimo, non fa una telefonata, dai. Positivo e cavarroge, cambio. Monopolizza il canale. Se lo vedi su. Va bene anche lui che sarà. ma anche lupo grigio, sì, lupo grigio deve aver chiuso. Stanno cominciando a entrare di meno, mi Natali, vedi? Piano piano ci prendiamo di nuovo tutto. Natalina! Non vedo nulla. Tanto non ho niente da vendere, questo qui cioè e lo lascio così, non c'è problema. Se non entrano tutti gli sacchiamo il QRM. E cosa vuoi dire a questo punto? Lo facciamo di ex! Allora, solo 10. Che qua. Cara gara. Ma va bene, dai. No problem. Come ti sta arrivando di segnale Natali con questo apparecchio? 9:20, da. Bassino, boh. Siamo vicini. È strano, eh. Ma sta arrivando. Forse pompa di più il Galas. Boh, non lo so. E un buon dia, buonasera. Cosa fa? Buonasera. Ciao Gianni, ciao a tutti. Tanto puoi dirlo a voce alta che pompa di più il Galas. Che questo qua adesso già pompa perché mi sono sentito, mi hanno mandato la registrazione, va bene. Di motivazione bellissimo, però non è come l'altra di basso, e l'altra è un altro microfono, è un altro apparecchio, non si può pretendere siano tutti uguali fra. Quello vabbè, ma sto dicendo esce anche con qualche watt in più, esce quello là. Cosa? Il Galaxy, gli stessi watt, 9 watt c'è questo e 9 watt c'è il Galaxy. Perché con il Galaxy che arrivi più forte qua? Boh, non lo so. Con il Galaxy sempre 9 watt mi segna. Capito. Anche adesso non stai arrivando neanche 9. Ah, vero. Sì, è vero, so. Adesso provo con il Galaxy, vediamo un pochettino. Luca! Franco! Ehi capo, vieni avanti! Ora sono col Galaxy Saturn Echo. Come va? Questo sei quasi 9.5 modulato. Eppure mi segnano che non cambia nulla. Ehi capo, qualcosina ti cambia. Non è molto, però qualcosina la cambia, va? Avanti Brico! Attenzione collega, se ascolti l'isola della Sardegna, Italia. Magari che te la andrei capis. Buenos Aires, muchachos. Quindi Galassi ti piace di più, ma anche per me il Galassi è la chicca più pedita. Capo. C'è una bella articolazione e tutto. Non avrei cambiato radio se l'avrei avuto. Poi da cambiare, capito? Ogni tanto ne attacco una. Capo, chi è che chiama? Avanti che chiama? Bu, ciao Franco, bu. Ne ho 5 di radio qua da cambiare, capito? C'ho l'imbarazzo della scelta. In più ne ho una sopra al mobile e sono sì, sempre funzionante. Poi insomma, siamo macchine a spendere tutti questi soldi. Io spendo più 5 lire in radio. Poi, se ci vuoi carica mi attacco un volantutto oppure un precedente link. Se no, se ci vuoi carica si sono potuto. E fra, così ti da buchi, quando non si fa, c'hai detto i gatti di Biglino. Non ho neanche idea, ma tu a me da dirmi che niente, non dura chissà, non dura. Sta già diminuendo un bel. Speriamo che spariscano le portanti. Già si stufano pure. L'altra notte a mezzanotte, quando ieri notte a mezzanotte c'era la portante. E ce ne siamo dovute andare ai 45 per perdere. E l'ho appistito? No, non ce l'aveva, deve essere. Cazzo. posto che era lì vicino a voi, nel Sassari. Ma non lo so, ovvero se era Sassari, se era a metà tra me e Fabio, era a metà tra me e Fabio. Ora in macchina, non lo so, però stava mettendo a portata e a Fabio lo disturbava, lo copriva. Vabbè, vuol dire che era lì vicino a voi. Cosa ci vuoi fare? C'è gente che ci ha comprato il baracchino apposta per fare questo. Sì, ce la abbinano in luci tutti. Ci vuoi che non ho fatto guerra a Natalino e si è comprato il baracchino e si è portato a tutti. Poi già ci siamo divertiti, ma avevamo fatto un bidone a capri due che c'è cascato, oh, mi risa di Torino Kawasaki, si siamo avuti gatti. Almeno, era fino a micro. Allora io ho cominciato io a farli bidone, da Brescia. Attento amico, amico della Sardegna, e lui avanti, avanti, ti sento fortissimo. Cazzo, poi è stato Torino Kawasaki che faceva lo spagnolo. Attento mio hermano, devo scusare. Cazzo, e ce l'ha rilanciato un bel di volte, poi alla fine è entrato Franco anche ed è scappato Kawasaki e da lì ha capito tutto. Allora. Hai colto io, guarda. E ha detto che ce l'aveva capito dall'inizio, non lo voleva ammettere, che l'abbiamo bidonato. Che ci aveva capito dall'inizio, era un dicato di lacrime me ne aveva rendi, era tutto preso lui. Come ti arrivo con la zona? Come fai un buon così, è bello. Cesso di risata. Allora, come ti avevo capito che è una cosa, che sei compreso. E il figlio mi ha detto che all'inizio lui non aveva capito, poi ha sentito Kawasaki, allora lì ha capito tutto. A voi non poco. Perché adesso ci sono, a volte arrivano gente, siete da fuori, che il segnale è stabile, e arrivano forte. Come l'altro giorno ce n'era uno, e in spagnolo era questo. E arrivava 9:20, a me mi arrivava, era stabile. Perché usano i lineari, capito? Quindi sono stabili i segnali. Ma io volendo posso fregarlo, perché io ho il power e posso abbassare e alzare quando voglio. Quindi potrei muoverlo e farli muovere la scelta. Come questo lo stesso. Nuovo slide della radio e abbassa e solleva, solleva. Sì, ma infatti non ci vuole niente. Non mi chiede mera. Alleluia. Io ero tutto il giorno. La radio ce l'avevo tutta su un tavolo fuori, ce l'avevo, stavo nel biancarlo qua, tavolo. E non si è stato spento il caffè tutto poco fa. Vabbè, io mi devo decidere a farmi la cucina perché a quello di sopra si è allagata la casa e praticamente mi hanno fatto uscire tutta l'intonaco da sopra, non l'intonaco, la pittura. Pure stuccato e pitturato, era appena fatta, ragazzi, ma non ha mai. E me lo potete pagare i danni. Ma cosa? Ma lasciamo perdere, va. Che ne ho detto alla moglie, non c'è venuto a manca, qui non dico a mio marito, non c'è venuto a manca a controllare, capito? Adesso chiamo il capo condominio, gli faccio vedere i dati che mi ha fatto sia nella cucina che nel bagno. Tutti e due posti, a casa è nuova, ma non è cazzo che sono casi vici. Non ho capito, se sta pitturata, è tutta mantenuta a casa. Cavolo? Dovresti, infatti chiama il capocolonino e faglielo pagare i danni, almeno la tinta è la manovra. Lui è un muratore, c'è un'impresa, capito? Quindi non gli costa nulla prendere un po' di pittura, lo stucco e farlo. Però mandrone, non gli batte, guarda dei danni da voi lasciare tutto uscire, capito? Non va bene questa cosa. Se mi giro nel mare metto l'avvocato e vediamo un pochettino se mi la paga. Ci mancherebbe altro oggi, tanto uno va di tutto, finisce la gara, vedo ultimi, arrivi uno che te la vada più, no, avanti in bic. Cazzo, ciao Gavinuccio, buonasera, ben ascoltato, avanti Gianni. Ciao Gavinuccio, ma ti sento bassissimo, proprio basso, livello QRM. Buonasera, io ti sentivo più forte. Adesso va benissimo, sei Santiago 5 e ti ascolto bene anche in radio. Cos'è attaccato, segretaria? Bene, bene, va bene. Ti uso. E tu a me come mi ascolti in quella zona? L'orologio d'oro, il treno al pendolino. Cappa, va bene. Non sono 48 così, anche io sono 48 modificato, ma quando entra la frangente mi splatterano. E ma ti sei già nei vici più bassi proprio, ma sei proprio in un fosso allora. Ah, ecco perché. Lì è un fosso brucio, Esci da anch'io, vieni voi. Se ti interessa sto venendo modificato, io ho 48 modificato. Calma. Io ho 3009, l'ho preso da poco, nuovo, il 3009. Cazzo. E se c'hai il Collex, perché devo metti quello lì che non prende slatti il Collex? Cazzo. 48, io un giorno l'ho attaccato. E prendevo slatti da salsa, prendevo, figurati. A giubilato e a giubilato, boh. Il 48 è così, per poco di là. È fatto così e boh. Un giorno è entrato Tino, è entrato, ero con 48, sul 12, parlando con Gianluca. Ha trattino entra, esce, non mi guardavo più. Succede così infatti. È così purtroppo. Vabbè, ho preso, io ho cambiato radio, veloce, e ho continuato a parlare. Non lo vedere i DVD. Vabbè. Uia. Comunque mi pare un po' strano che cazzo cambi il segnale, tutti e due sono 9 di coso, di potenza, ma probabilmente c'è qualche cosa in più, il gas. Magari c'è qualcosina in più, che purtroppo quello là si quasi 8 e qualcosina, sì, che è importante ferma, fissa. Invece questa è 9 più modulati. Kappa. Vediamo se c'è qualche due. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, perché sono già le 8. Adesso è ora di cucinare. Vedi che sto scendendo. Avanti lo bruscio. Allora ragazzi, tu. Lavorando? Come vai? Insomma, magari prende pure, non si sa. Ah, beh, quello sì. Aspetta. Vabbè. A stare lì, entri in azienda, poi dopo un po' di nuovo finisce il lavoro e torna a casa. Cazzo, mi do casino. E questa azienda non ho altro lavoro. Piano, ci sei. Ehi, allora fa vedere il branco. Ehi, cazzo. A fare viaggi di nuovo, capì? Parlando così. Cosa già? Si sboccano. Così mi sta parlando. Allora no, se lo sboccano. No, capito. Franco! Ehi, allora di tutto. Guarda adesso come arrivo di segnale. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Se sei quasi 9-10. Cazzo. Va bene. E prima ero 5. Già va bene, dai. A me è più aperto. Ehi, a voglia. Faccio 2 anni. E sono già 2 anni a casa. E me ormai non sono problemi. Ho finito di cercare lavoro. No, a casa, senza campagna. Ah, ma diventa mandrone, bravo. Ehi, sono qui là. Con la partita di Luca Natanazzi, Luca giù, di chi giù, piccante. Via giù mi ha dato da Luca Natanazzi a un palacchino. Io l'ho confesso. Che è? Buonasera a tutti, ciao Luca, ciao Gianni, l'altro chi è che non ho capito avanti? Chi è che ha parlato sopra già? Franco Nero. Greco, ciao Roberto, ti ho appena sentito, ho appena accenno. Vai al microfono, scusate, dai, spostate i ricadi, mi fai sentire, vattene su 12 così non disturbiamo, devo sentire il microfono. Voi siete entrati e vedevate un macello, vabbè. Stava parlando senno di Roberto. Magari,